Siamo in collegamento con Dario D'Ambrosi per parlare della 26esima edizione del Festival del Teatro Patologico qui a Roma, al Teatro Patologico in via Cassia 472, dal 24 di febbraio al 26 di marzo. Dario, benvenuto al Radioteatro su Onda Rossa. Grazie, ciao a tutti i radioascoltatori, ciao ragazzi. Allora, ne parliamo con un po' d'anticipo, però insomma intanto prepariamo il terreno. Allora, raccontaci un po' della storia, della lunga storia del festival. Sì, ecco, siamo arrivati alla 26esima edizione dopo che questo festival è iniziato a Villa Maraini, sempre qui a Roma, dentro il Teatro al Parco, e devo dire che erano anni veramente incredibili, dove secondo il mio punto di vista c'era una forza, un legame tra i giovani e il teatro, un certo anche tipo di teatro. Mi ricordo questo perché le prime edizioni del festival tutte le sere era sempre esaurito, e la cosa bella era vedere dei ragazzi appesi alle finestre del teatro per poter spiare, per poter sbirciare veramente per quello che succedeva all'interno di questi spettacoli, devo dire spettacoli anche storici come Benito Guttmacher, Jean-Claude Collignon dalla Francia, cioè spettacoli che poi io personalmente non ho più visto a Roma. E devo dire che abbiamo iniziato il festival con degli spettacoli di rottura, e devo confessarvi che quest'anno, ricevendo veramente quasi 700-800 proposte da tutta Italia, ho voluto in qualche modo mettere su un festival veramente provocatorio, veramente come quegli anni dove c'erano questi artisti che lasciavano qualche cosa allo spettatore, perché secondo me c'è bisogno di ridare emozioni al pubblico, perché c'è sto pubblico teatrale che va a vedere spettacoli catatonici e tornano a casa più morti degli interpreti che hanno visto sul palcoscenico, e c'è proprio bisogno invece di smuovere questo pubblico, che secondo me merita di qualche cosa di molto più elevato di quello che i teatri romani gli propongono. Senti Dario, praticamente un mese di programmazione, quanti sono i lavori ospitati? Sono 11 lavori. Iniziamo con una preghiera mia dedicata a Crinò, che si chiama in greco antico, significa critica, alla giornalista del Messaggero Rita Sala, che è stata una delle più grandi sostenitrici del Teatro Patologico, tanto che quando Simone Cristicchi vinse il Sanremo con la famosa canzone sui malati di mente, lei in prima pagina scrisse Cristicchi, devi tutto probabilmente al Teatro Patologico, a Dario D'Ambrosi, per questa vittoria a Sanremo, e perciò c'è questa preghiera che io faccio di lei con Almeica Schiavo, che rappresenta Rita Sale, quattro personaggi della nostra società, come un politico, un militare, un trans e un prete. E anche questo devo dire che ho scritto un testo veramente provocatorio. Il giorno dopo debutta Olgia di Pasolini, un altro lavoro secondo me abbastanza forte. Per ritornare alla domanda, sono 10 lavori, uno più curioso dell'altro, uno più provocatorio dell'altro, uno più, diciamo, in qualche modo drammaturgicamente diverso dall'altro, e questo secondo me è la forza di questa edizione del festival. Senti, per quanto riguarda la scelta di questi lavori, quali sono le caratteristiche di un lavoro all'interno del Teatro Patologico? Ma sicuramente che mette un po' in discussione il momento storico e squallido che stiamo vivendo, il problema dell'immigrazione, il problema dell'emarginazione, il problema del bullismo, il problema del menefreghismo. Si parla di bullismo, si parla di immigrazione, ma non si parla di menefreghismo. Cioè, al giorno d'oggi c'è veramente un menefreghismo incredibile. Questo per non parlare dell'arte, nell'arte o nello spettacolo. Cioè, sembra che qua siamo tutti a curarci il nostro piccolo orto, ma non abbiamo capito che dopo aver mangiato le due carote, le due zucchine, l'orto sparisce, tu hai bisogno di costruire un grande orto in generale. E questo è un po' le tematiche che escono in questa edizione del festival. Senti, ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, guarda, beh, si può andare sotto teatropatologico@gmail.com o telefonare al Teatro Patologico, che io in questo momento non ho e non ricordo, però si trova, il numero, però diciamo si può, ci sono tanti modi per prenotare, sia via email che telefonicamente, ma devo dire che fortunatamente siamo situati vicino Corso Francia e diciamo Ponte Milvio, non abbiamo problemi di parcheggio e la gente ha anche possibilità di mangiare un piatto di pasta e con bicchieri di vino per soli 5 euro. Tutti i fine settimana, venerdì, sabato e domenica, dal 24 di febbraio al 26 di marzo. E aspetto tutti, veramente, se volete vivere delle emozioni molto forti, vivere una serata assolutamente indimenticabile. Se poi volete avere un cardiogramma piatto, vi consiglio tutti gli altri teatri romani. Allora, un abbraccio Dario, ci si vede al Teatro Patologico. Patologico, vi aspetto, vi ringrazio tutti voi ragazzi, non mancate, ciao. A presto, ciao. Ciao.